insieme, almeno quest'oggi, inizia con gli Oleander con Don't Break My Fall. Anche loro hanno avuto diversi mesi di successo all'interno della nostra radio, anche loro poi sono spariti, più visti, più sentiti. Fortunatamente invece i prossimi sono recentemente tornati con qualcosa di nuovo, e sto parlando dei President of the United States of America, questa Mixed Up Son of a Beach. You think she took me for a ride? She held it all way up inside. She held her breath and turned her face all red. That's how they found her. Like a bird on fire, she flew into a rage. Her eyes are permanently crossed. Once you wonder, you can swear. The music flowing. Ah, life is walking by. See the loving tree growing. Ah, life is walking by. An empty boat starts rowing. That's when you're knowing life is walking you by. Out anywhere. exercise my thighs. If I told you that I know about the sun and the moon, that'd be untrue. The only thing I know for sure is what I won't do. Anytime, anywhere. Purtroppo non ho il tour de force all'interno delle mie due ore, quando la mia memoria me lo permette vi ricordo magari qualche appuntamento importante, ad esempio quello con i Queens of the Stone Age che arriveranno in Italia al posto di Chris Cornell all'interno della prima giornata del Heineken Jammin' Festival. E diciamocelo chiaramente, Chris Cornell è molto bravo, è veramente un simpatico, una parola veramente grossa, bravo appunto, e ha fatto sicuramente un sacco di cose molto belle, però Queens of the Stone Age tutta la vita. Settimana prossima anche loro saranno nostri ospiti, non so perché ho detto anche loro, vabbè. Lacuna Coil, questa To Live Is To Hide. Dopo il Lacuna Coil con To Live Is To Hide. Ricordiamo tra l'altro che Lacuna Coil, oltre che essere nostri ospiti settimana prossima, stanno già lavorando al nuovo album. Dopo di loro c'erano gli Avenged Sevenfold, i miei preferiti simpaticoni. Questa era Almost Easy. Adesso vi lascio con It Dies Today, questa 6th of June. Yeah. questa canzone così per salutare il mio collega Mox. A lui voglio dedicare questa canzone perché così da quando ci siamo cambiati gli scambiati gli orari non ci vediamo molto spesso, però ci si sente via radio. Questa era Sick of You e rimaniamo ancora una volta in compagnia di una band italiana. Non ho visto il loro nome all'interno degli ospiti della prossima settimana. Come mai? Spero sia un errore e spero che arrivi una conferma prima possibile. Stiamo parlando dei Pancreas che ascoltiamo con Non Cambio Mai. Ho visto amici alla televisione, chissà com'è che non mi chiamano mai. Forse perché non gli sto troppo simpatico, o hanno paura che combini dei guai. Inaffidabile, irresponsabile, ci devo essere poco raccomandabile. Incorreggibile, incontrollabile, ci devo essere poco raccomandabile. Non cambio mai, non so stare zitto, non so stare dritto. Niente c'è da fare, devo rinunciare perché non sono una star. Faccio paura nei programmi in diretta, neanche se fossi stato effetto di un tri. Chi non si fida, forse c'è chi sospetta che tutto il tratto io mi tolga gli slip. Vogliono artisti, professionisti, da collocare per consigli per gli acquisti. Discorsi onesti, dei toni giusti, sollecito che non toccare certi tasti. Non cambio mai, non so stare zitto, non so stare dritto. Con la schiena e quindi no, mi chiama mai. Niente c'è da fare, devo rinunciare perché non sono una star. Da collocare i tuoi consigli per gli artisti. Distorsi onesti, leggoni giusti, sollecitati a non toccare certi tasti. Non cambio mai, non so stare zitto, non so stare dritto. Con la schiena e quindi no, mi chiama mai. Niente c'è da fare, devo rinunciare perché non sono una star. Che non sono una star.